Se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna una notte cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, sciano da gran signore, rimedini d'amore, per sogni e per chimere, e per i castelli in aria. L'anima parlate chi siete.